負けで 負けで ぶ、ギコの、ならあるよ。手をざいげん。手をざいげん。手をざいげん。 ギコの、のねならあるよ。え、なあったらあるよ。ごめん。なあったらあるよ。ごめん。 なあったらあるよ。 Nartra Radio. Nartra Radio. Nartra Radio Roma. La radio in bassa frequenza. Frequenza, frequenza, frequenza, frequenza, frequenza, frequenza, frequenza, frequenza. Trust me, I definitely understand. See, I can't help myself either. Children, I could never do that. Not like you. Never. Ever. Kids. Se vuoi vedere quello che vedo io, apri la porta e accomodati. Se vuoi sentire quello che sento io, spingi play e spegni per un po' il mondo intorno a te. Nartra Radio Roma si sta a fare un altro giro intorno al cosmo. Prossimo brano, Darkey, con la sua ed eccoci di nuovo sulle onde di Nartra Radio Roma. Io sono sempre DJ Cocotte e vi accompagnerò per quest'altra oretta attraverso mondi sonori, cosmi di spazi mai veduti e mai sentiti. Dopo il nostro artista Darkey con la sua Fake, continuiamo con un collettivo di personaggi molto molto particolari. A loro avevo promesso di mettere un brano in un mio podcast ed eccoci qua. Loro sono i Blister Sound Project, provenienti da Torino, gente cresciuta con vinili di rock, musica a sette e soprattutto con i dischi di Fratelli Maggiori. Chi non ha mai conosciuto la musica attraverso il fratello maggiore? Ascoltando i suoi dischi, le sue musiche a sette, ascoltando le sue parole, sentendolo parlare con gli amici. Il suono, dicono, è un po' casareccio, ma ci si prende gusto. I Blister sono all'opera per farvi conoscere le loro ultime produzioni e farvi ballare ancora di più. E ricordatevi, un blister al giorno toglie la monotonia di turno, non crea dipendenza, provare per credere. Ecco a voi Blister Sound Project con il loro brano Ghiaccio Caldo, collaborazione di Radar Station. This is the center. regularly for you in southeastern Greenland, in this beautiful, remote environment. The Commission of the Satellite and its crew are providing additional support for scientists like Dr. Gordon Hamilton. You hear this sort of thing, it's still pitching off. Dr. Hamilton is a scientist from the University of Maine. From aboard the ship's helicopter, he shows me why Greenland has the potential to change life on this planet. Many glaciers around the world, it's retreating. Helheim is 5 miles or 8 kilometers shorter than it was 10 years ago. And Dr. Hamilton's research shows it's flowing into the ocean much faster. A decade ago, it traveled 4 miles or 7 kilometers a year. Then it accelerated dramatically before easing off slightly. From what we've seen in this one glacier and other ones like it in Greenland, it's been this such rapid, enormous changes in the last 5 or 10 years. It's really been quite alarming. Alarming is the glacier acts as a conveyor belt for the ice sheet. The faster it moves, the more water it dumps into the world's oceans. Greenland's ice sheet is currently losing the equivalent of 80,000 Olympic-sized swimming pools every year. Thank you. e loro erano i Blister Sound Project, insieme a un altro artista, Radar Station. Di tutte e due potete andare a vedere su cube.tv informazioni, scaricare brani, sapere dove sono, sapere da dove arrivano e sapere cosa suonano e che cosa hanno nella loro capocetta. Insomma, dopo Blister Sound Project passiamo a un altro gruppo di Roma, loro vengono da Monterotondo e si chiamano i My Radio Boy. Sono amici da tempo e scoprono piano piano una passione per la musica elettronica. Le loro influenze, dicono, sono gli Air, i Daft Punk, ma per me, a mio modesto parere, mi ricordano moltissimo i Virginiana Miller, non so se li conoscete. Erano un gruppo che girava tipo una decina di anni fa. Comunque andate a prendere informazioni anche su questi Virginiana Miller, già che ci siete, e confrontateli con i My Radio Boy. All'inizio del 2007 hanno intrapreso il progetto My Radio Boy, chiudendosi in un appartamento di 35 metri quadrati con vocoder, sintetizzatori e drum machine, e hanno iniziato a registrare le loro prime idee su un computer portatile. Comunque, nel 2009 si è aggiunto un altro componente e adesso sono in tre. Loro sono i My Radio Boy e questa è la loro bolla di sapone. E se mi tocchi, se mi tocchi, come dicono i My Radio Boy, se mi tocchi scoppio. E come dice un'altra Radio Roma, se metti sto po' de gas su ste casse, te scoppiano. E allora continuiamo così. Passiamo dall'Italia al Venezuela. Lui è un artista e che ho scoperto su www.qob.tv. Si chiama Buddy Boy, si fa chiamare anche Nick Boy o Nick Buddy. Comunque, lui è venezuelano. Per conoscerlo ancora più a fondo, andate sul suo sito Flickr per vedere le sue pregevoli arti grafiche, veramente interessante. I collegamenti li potete trovare sul sito di qob.tv. Ed ora, da Bogotà, Venezuela, un'altra di Roma, se va in giro intorno al mondo. Buddy Boy con Stage Inspiration. Buon ascolto. Continuate ad ascoltare Roma. Oh, questo momento Nartra Radio Roma è sbarcata a Bogotà. Anche a Venezuela conoscono Nartra Radio Roma. Non so se capiranno il nostro dialetto, se capiranno il romanaccio, se capiranno l'italiano. Comunque, la musica è universale e loro capiranno, capiranno, capiranno, capiranno, capiranno, capiranno, capiranno. Comunque la musica è universale e loro capiranno che questo è Buddy Boy. La sua stage inspiration è appena passata. E adesso continuiamo come un treno che non si ferma mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai. Quando sta? Oh, a Roma? No, sta mal. Viruz, viruz, viruz. Va bene, dopo questo attimo di panico e di nostalgia degli anni 90, di quando eravamo giovani, voi no, ma io sì, passiamo a un altro artista che abbiamo già sentito nei precedenti podcast. Lui si chiama XM. E come dice lui, internet, come molti altri fenomeni della natura, è soggetto a correnti e ondate in momenti di alta e bassa marea. Navigando c'è gente attrezzata con la nave e altri che hanno il loro canotto e si muovono con paura tra una e l'altra pagina. Io, girando da tutte le pagine di internet e scovando su Q.tv qualche artista che a me piace, che spero che a voi piaccia, ho scoperto XM con la sua Fat Soup. Entrate, entrate e addormentate, addormentate, addormentate. Nardra Roma. Non si ferma, si ferma, non si ferma, si ferma. We'll be right back. di nuovo in mezzo a voi Mr. Xen con la sua Fat Soup. Volete sapere di più sui suoi beat ipnotici? Volete sapere di più sui suoi beat oscuri? Andate su Q.tv, cercate Xen e commentatelo. Prossimo pezzo per noi qui a Nartra Radio Roma, lui è Mike Puse, not mass, but massive. Non si sa da dove viene, ma si sa dove va. Avete mai provato a mettere un dito in un barattolo di miele e farlo ruotare lentamente? Sembra una melma, la sua musica è melmosa, è oscura. Mike Puse con la sua Black Moon. Black. Ancora qui con voi per presentarvi nuovi artisti freschi freschi di giornata. Dopo Mike Puse con la sua Black Moons, andiamo avanti con un altro duo. Loro sono i 2Tony92. Arrivano da San Severo, cittadina pugliese immersa nell'Alto Tavoliere, e con loro ci andiamo ad ascoltare la loro Star Minimal House by 2Tony92. per la seconda volta qui su Nartra Radio Roma arriva un artista proveniente dall'estero, esattamente dalla Norvegia, Bergen. Lui si chiama Armio Smith, non parla italiano, parla solo inglese, perciò cercherò di dire una frase in inglese per presentare il suo brano. Questo è il commento che troverete sul suo website in SoundCloud, dove troverete altri brani oltre a questo qua che già lo trovate su cube.tv. Perciò, dopo Nick Vadi dalla Colombia, Armio Smith dalla Norvegia. Il suo brano è Captain Strong, Ruler of Seas, Master of the Universe, and a Killer on Base. Base. For you. Armio Smith, from Norway. Listen to Nartra Radio Roma. Drum and Bass from Norway. Lui era Armio Smith. Adesso passiamo ad un artista italiano, sempre nell'ambito drum and bass, ma un po' più pesantuccio. Lui si chiama Felon, nome Domenico, cognome Covelli, nato a Milano, professione musicista e videomaker. All'attivo già 4 album, partendo da Electrum 2009, Delta 9 2009 e Acid Days 2009. Ultimo album, ancora in produzione, si chiama Involution, da cui prendiamo la traccia numero 4, Burning Meat. E ricordatevi, per Felon l'importante è l'energia e soprattutto il distorsore. Felo, sull'altra radio. Roma! Yeah. quel traccione di Mr. Phelan ci siamo andati a prendere un'altra ruvida e cattiva pasticca del mondo di Blister Sound Project, direttamente da Torino. Questa traccia si chiama Orchid e la trovate in un contest nel sito di Roma Europa Web Factory. Voi trovate i Blister Sound Project lì, ma li trovate sicuramente qui, sulla nostra, frequenza. molto contento che lei sia venuto da me. Ho già passato ciò che sta passando lei. La sua realtà ormai è già per metà una videoallucinazione. Se non sta attento, diventerà un'allucinazione totale, irreversibile. Dovrà imparare a vivere in questo mondo così assurdo. Io sono stato il primo caso di Videodrom. La prima vittima. Lui era Mitra, con la sua non si esce vivi dagli anni 90. Manipolatore elettronico dove si nasconde il genio impertinente di Marco Polano. Sound che oscilla tra IDM e industria. Con la sua traccia dipinge un quadro compositivo in cui viene dato colore a emozioni violente e depresse che altrimenti finirebbero per generare solo farneticante e copioso nero. Lui è di Cave e noi siamo un'altra radio. Roma. Non scordate mai. Wenn wir uns mit der Malaria auseinandersetzen, nehme der Happy Few der wohlhabenden Minoritäten in Länder. Eine Erkrankung der Armen zur Chancenungleichheit. Ed ancora musica su un'altra Radio Roma. Lui che è appena passato era Craig, con la sua Svurd. Tutta la musica creata da Craig è stata realizzata utilizzando solo strumentazioni reali, sequencer, campionatori, sintetizzatori e nessun software. La sua musica, come dice lui, è un incrocio tra dark, minimal, electronic, glitch, techno ambient con sprazzi di electro industrial, capaci di alternare beat potenti o situazioni morbide ed introspettive. Nei prossimi podcast sentiremo ancora parlare di lui. Lui è Craig e se volete trovate i suoi album da scaricare free download sul suo MySpace. Lo trovate su cube.tv e soprattutto su SoundCloud. E noi ci andiamo ad ascoltare altro. Però prima, ricordate di alzare di alzare su un'altra Radio Roma. Ciao, my name is Linda and I am listening to un'altra Radio Roma. Ascoltatela anche voi. Tante, sono Giancarlo Lappacchi e oggi ascolto un'altra Radio Roma. E dopo il ringraziamento dei nostri ascoltatori che ci telefonano copiosamente, arriva il ringraziamento di me stesso, di Jaco Cot, di un'altra Radio Roma, di tutto il suo staff, di tutta la sua crew, e soprattutto un ringraziamento a tutti questi artisti, di cui in questa oretta, quasi un'oretta e un quarto, ne abbiamo fatto la conoscenza. Ringraziamoli di averci fatto conoscere la loro musica, nuove sonorità e nuove cose a cui prima non davamo retta, non sapevamo che esistevano. Allora che fare? Prenderci le cuffiette, mettercele nelle orecchie e ascoltarci questi ultimi due brani. Vi faccio sentire un'altra volta i due scheletri della Puglia, i Two Tony 92, perché c'hanno qualcosa che mi piace. C'hanno quel qualcosa che non sai cos'è, ma è. Il loro pezzo si chiama Relax e vi porterà, appunto con tanto tanto relax, alla fine del vostro viaggio. Casomai state per arrivare all'università, siete all'ultima fermata del vostro viaggio per andare al lavoro, per andare, non so, decidete voi. Insomma, Two Tony 92 con Relax. E per ultimo un pezzo di un artista che proviene dalla Romania. Lui si fa chiamare Pulso, lo trovate su Cube.tv con oltre 200 tracce. Lui ha soltanto 21 anni. E chissà a 30 anni quante tracce avrà fatto. Noi ci ascoltiamo la sua Prayer e vi auguro a tutti buon ascolto. E mi raccomando, io ve lo sto dicendo per l'ultima volta, ma voi alzate ste gazze, che vi sto mandando altro volte gazze. Solo un'altra radio Roma. Ma. E che mo, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio, un'altra radio. Un'altra radio, radio, radio, radio, radio. Roma. Roma. Roma. È una radio che potrebbe avere effetti indesiderati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.